Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ah, ci siete, ci siete. Ma perché avete smesso di suonare, scusa? Forse ho bisogno di voi dopo, ok? Fate una piccola pausa, grazie. Ok, è veramente un onore essere qui, essere contribuire con la parola di Dio al vostro percorso, quello che il Signore sta facendo qui da voi. Dicevo proprio al pastore Mirko ieri che loro, che voi come chiesa siete un grande incoraggiamento per me e per molte altre persone che hanno pensato che è impossibile avere una chiesa così bella in Italia. E sapete, molta gente vorrebbe fare delle cose e pensano no, non è possibile, poi vedono altre persone che lo fanno e non è soltanto bello per voi, ma è bello per la gente che vi osserva e che sente quello che avviene qui, che il Signore sta facendo, creando un'espressione di chiesa che è bella. Sapete che io penso che il diavolo vuole che tutta la bellezza della chiesa rimane nascosta. Per esempio la gioia del Signore, no? C'è una canzone in inglese che dice "The joy deep down in my heart", cioè la gioia profonda nel mio cuore, così profonda che non si vede, no? E tutte le cose belle vengono molto spesso nascoste e quindi è molto importante far vedere quello che è in noi. Perciò io penso che l'espressione della gioia è molto importante. Non è la stessa cosa se lo facciamo o no, ma l'espressione, la passione per il Signore è una cosa molto importante. E ci sono sempre più chiese che stanno scoprendo che l'espressione che noi abbiamo, come noi siamo, è molto importante. No? Quando vediamo la natura come Dio ha fatto la natura, sono contento che lui non ha detto sì, non fa niente, com'è la natura, se è bella da vedere o no. Ha fatto una bellissima natura. Io abito in Austria e ora c'è così tanta neve, è proprio incredibile quando vedi tutti gli alberi pieni di neve, tutto bianco, è così bello. È così bello. E Dio l'ha fatto tutto per noi, così abbiamo gioia nel vivere. E quindi la sua chiesa dovrebbe essere ancora di più è un'espressione della bellezza di Dio. Quindi l'apparenza che abbiamo è una cosa molto importante. Abbiamo reso troppe cose spirituali e non visibili, ma è tempo che la chiesa di Dio mostra, fa la bellezza di Dio, rende visibile. Ok? E quindi voi come chiesa siete una chiesa che rende la bellezza di Dio visibile, anche essere qui in questa riunione, come siete, come accogliete, come cantate, come organizzate, questo mostra la bellezza di Dio e voglio dirvi grazie, voglio incoraggiarvi ad andare avanti ogni giorno e non mollare, non pensare mai, ma no, ora facciamolo con meno lavoro, no, fatelo sempre con tutto il cuore. Quando io stavo pregando pensando che cosa posso portare a voi stasera, ho sentito da parte del Signore di portare qualcosa che è più di parole, ma io spero che qualcosa vi sarà come un virus che non si vede, ma ve lo portate a casa, no? Quando io avevo circa 5 anni, abitavo a Taranto, molto spesso noi a casa ospitavamo gente che venivano, pastori, missionari che venivano alla nostra chiesa, li ospitavamo e stavano con noi. E un giorno mi ricordo c'era questo inglese che venne a predicare nella nostra chiesa, un uomo per me, io ero così, io ho 5 anni, poi 5 anni lui era anziano per me, no? Non so quanti anni veramente aveva, ma per me era anziano, no? Aveva i capelli molto biondi e una pelle anche molto molto pallida, diciamo, forse tipica inglese, no? Un po'. E lui era lì, un giorno ha fatto il breakfast, la colazione, mia madre l'ha data la colazione, l'ha mangiata e se n'è andato, e io non sapevo dove andava, non ce lo dicevo dove andava, ma se ne andava tutto il giorno e poi ritornava la sera quando non predicava, ritornava la sera, poi andava alla riunione. E un giorno, quando lui se n'è andato, io sono andato insieme a mia madre in piazza a fare la spesa. Io seguivo mia madre sempre dappertutto. Quando mio papà ritornava dal lavoro, io andavo con lui dovunque. Non volevo mai rimanere a casa. E quella mattina siamo andati in piazza, e eravamo in piazza, e quando ci avvicinavamo alla piazza, no? Si sentivano le grida, non so se oggigiorno si grida ancora in piazza, ma i pomodori, chi vende i pomodori? I pomodori, i peperoni. E quindi io sapevo che c'è gente che grida, quando ci avvicinavamo alla piazza, le voci erano sempre più alte. E quando sono arrivato, questo giorno, ho sentito la voce, una voce che era diversa, un accento strano, che parlava italiano ma con un accento strano. E quando mi sono avvicinato, ho visto questo missionario qui, questo pastore, che abitava a casa nostra, era nella piazza, in mezzo a tutta la gente, con la Bibbia alzata, e diceva, Gesù vi ama! E gridava alla gente dell'amore di Dio. E quest'uomo, che a me sembrava che fosse così come si dice, quasi quieto, e non un tipo estroverso, eccetera, gridava, ma non gridava, diciamo, in una maniera negativa, ma alzava la voce, così la gente lo sentiva, con questo accento italo-inglese, no? E ho riconosciuto che era questo fratello qua, che si chiama Philip Wiles, che era a casa nostra in quella giornata. E quando ho visto a lui, in quel momento, qualcosa mi ha detto, quando io divento più grande, voglio essere come lui. Ho visto un coraggio in questo uomo, che volevo avere anche io. E ricordo prima che se ne andò, quella volta che era con noi, mi ha preso sulle sue ginocchia e ha messo le sue grandi mani sulla mia testa e ha detto qualcosa, non so che ha detto. Però lo so, oggi so che ha messo qualcosa dentro di me che ha fatto qualcosa con me. Le decisioni che io ho fatto dopo, quando avevo questo 19 anni, di servire il Signore e andare dovunque Lui mi mandava, non sono state fatte perché qualcuno mi ha convinto all'ultimo momento e l'ho fatto. No. Quelle decisioni sono state fatte perché quando io ero piccolo ho visto qualcosa. Quando avevo circa 10 anni, una volta andai con mio padre, con mia madre, in un villaggio, non mi ricordo più quale villaggio era, se era un posto che si chiama forse Manduria, una cosa del genere. C'è un posto che si chiama Manduria, il villo di Manduria. E mia madre andava sempre con un'altra donna a evangelizzare nei villaggi intorno a Taranto. E io non potevo essere lasciato solo a casa, era un pericolo. Andavo sempre in giro con fiammiferi, cioè incendiavo sempre tutto. Mi piaceva il fuoco, avevo una passione per il fuoco. Una volta i miei genitori erano in una riunione in un villaggio che si chiama Talsano. Conosci Talsano? Quando i miei genitori erano spirituali a fare le preghiere, io sono uscito. Avevo sempre i fiammiferi in tasca. Oggi penso che è qualcosa di simbolico, il fuoco dello Spirito Santo, no? Però a quel tempo i miei genitori non si divertivano con questa cosa, non pensavano nel fuoco dello Spirito Santo. I miei genitori stavano pregando nella chiesa e io sono andato in questa campagna dove non so se è ancora così, oggi c'erano molti rifiuti là, no? In questo pezzo di campagna, in mezzo al villaggio, e c'era un contenitore di plastica rotto. L'ho preso e ho detto, ma chissà come brucia la plastica. ho acceso la plastica e vedevo che cadevano le gocce di fuoco, no? E andavo in giro così, no? Pum, pum. E poi quando mi sono girato mi sono accorto che tutta la campagna era in fuoco e me ne sono scappato, no? E poi la polizia aspettava i miei genitori alla fine della riunione. Veramente, aspettava suo vostro figlio! Comunque, che stavo dicendo? Sì. Allora, quella volta eravamo, se non sbaglio, a Manduria, io e mio padre andavamo a passeggiare, mi compravo il gelato e tutto, mentre mia madre andava porta per porta e parlava con la gente di Gesù. E una volta, quando lì è ritornata, ho notato che mia madre aveva la guancia tutta rossa e si vedevano le impronte di mani, delle dita. E io dicevo, ma che è successo a mammina, che è successo? E lei è ritornata, c'erano altri che erano stati a evangelizzare, è ritornata, era così contenta con queste impronte nella faccia, così, no? E dicevo, io ho sentito mia madre dire, oggi ho avuto la gioia di essere picchiata per Gesù. E io pensavo che stava scherzando. Poi ho chiesto, ma che è successo? Noi ero picchi, che è successo? E ora, quando lei ha parlato con una signora di Gesù, quella signora ha, visto, ha sentito che non era cattolica, l'ha dato, l'ha dato uno schiaffo forte. E quel giorno io ero molto, molto arrabbiato. Io ho detto, io volevo uccidere questa persona che aveva 10 anni, ma io... Però sapete, quando sono andato a casa, io ho pensato che mia madre, tutto il tempo quando siamo stati in macchina, ritornando a Taranto, non si è mai lamentata, anzi veramente diceva, oggi ho avuto l'onore di essere perseguitata per Gesù. Io ti dico questa storia perché in questi momenti è successo qualcosa nella mia vita. Quello che io oggi chiamo lo spirito di fede è entrato dentro di me. Sapete che ci sono tanti tipi di fede nella Bibbia, no? Ci sono almeno 3 tipi di fede nella Bibbia che voglio menzionare oggi. Ma c'è un tipo di fede che rende la Chiesa indistruttibile. È italiano indistruttibile? Indistruttibile. È una fede quasi irrazionale, ma che ci fa fare cose che noi non dovremmo fare come esseri umani. Ci porta a fare cose che sono al di là di quello che normalmente le persone riescono a fare. Io voglio leggere un passo della Bibbia, che Paolo ha scritto, e lui dice questo. Dove siamo? Scusatemi. Paolo dice questo, leggo Seconda Corinzi, capitolo 4. Mi dispiace, non ho avuto il tempo di mandare i versi, ma leggerò piano piano e cercherò di leggere in italiano, ok? Seconda Corinzi 4, verso 5. Paolo dice questo, noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore, siamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio, che rifulge sul volto di Cristo, di Gesù Cristo. E poi dice, or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia Dio e non da noi. E poi dice questo Paolo, senti, noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. E poi dice, ma pur avendo noi lo stesso spirito di fede, spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Sapete che questo spirito di fede è qualcosa che diventa parte della tua vita e non è qualcosa che avviene in una certa situazione soltanto, che si manifesta in una situazione soltanto, ma diviene parte della tua vita e influenza tutto quello che fai. Stamattina parlavo del fatto, a Bari, parlavo del fatto che quando Gesù è venuto a risuscitare Lazzaro, Marta è uscita e dice, ma Gesù dove eri tu? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E poi pensa, ma no, non dovrei dire queste parole a Gesù, no? Ha detto, le parole non sono belle parole di fede. Allora, come si dice nella fede, cosa ha detto, cosa hai imparato nella scuola biblica? Ah, sì, ma anche io so che qualsiasi cosa tu credi al Padre te lo darà. E poi Gesù gli chiede, in effetti, dice, tuo fratello sarà risuscitato, e in effetti chiede a Marta, credi tu questo? E in effetti in questo dialogo tra Gesù e Marta, Gesù non lo fa per giudicare Marta, non lo fa affinché si senta male, ma mostra a Marta che Marta tu non credi quello che sta dicendo. Tu dici le parole giuste, quello che dovresti dire, ma in effetti tu credi che se io fossi venuto prima, quando tuo fratello ancora era in vita, solo malato, era in vita, avrei potuto fare qualcosa, ma ora è morto e non posso fare niente. Questo è quello che veramente credi. Quindi Gesù voleva portare Marta a un punto dove lei diceva quello che credeva veramente, no? Quindi quello che a Marta diceva non lo credeva, e Dio vuole portare tutti noi. Io sono nato in una famiglia cristiana, ho sentito così tante prediche, molto spesso io ho pensato di credere qualcosa, e poi ci sono state delle situazioni nella mia vita che mi hanno mostrato che io non credo quello che sto dicendo. E quando Dio me l'ha mostrato così, quando io veramente credo quello che dico, quando vengo in situazioni dove la mia fede, c'è bisogno della mia fede, che io posso veramente agire in fede. Dio non lo fa per esporci, non lo fa per farci sentire male. Quando Lui ti mostra che tu non credi quello che stai cantando, per esempio, non lo fa perché ti senti male, lo fa perché vuole che noi cresciamo nella fede. E noi diventiamo uomini e donne, non soltanto che credono in alcuni momenti, ma uomini e donne che agiscono in questo spirito di fede che è molto potente. E io sento nel cuore che per voi come Chiesa è molto importante, significa per ognuno di voi, che come Chiesa siete imbevuti in questo spirito di fede che vi fa fare cose che non sono normali. Tu dici, ma le facciamo già, le farete ancora di più. Veramente, quello che il Signore vuol fare tramite pieno Vangelo ha bisogno di essere accompagnato da uno spirito di fede. Ecco, dove lo vedo lo spirito di fede qui, in quello che dice Paolo? Sai cosa dice Paolo? Paolo dice questo: noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi. Sapete che in questa piccola parola, ma, no? Quindi la cosa bella di Paolo non dice, no, oh, è tutto bello, il Signore è con noi, siamo benedetti, è tutto facile. No. Paolo dice, io voglio essere realista, io voglio essere autentico, io voglio dire a voi la verità, che è difficile. Ma io non dico, sapete, fratelli e sorelle, noi siamo afflitti in ogni maniera, siamo perseguitati, abbattuti, e stiamo portando di continuo nel nostro corpo la morte di Gesù. Lo spirito di fede che era dentro Paolo non lo lasciava, non lo permetteva di lasciare queste frasi incomplete. La frase completa è, noi siamo afflitti in ogni maniera, ma, diciamo insieme, ma. Da questa sera in poi, questa piccola parola avrà più significato nella tua vita, perché la dirai con più convinzione. Perché Dio non vuole che noi siamo fedeli, che dicono, sì, tutto a posto, tutto a posto. Come stai, sorella? Oh, gloria a Dio! Anche se dentro stai morendo, tu puoi dire, lo vuoi sapere come sto io? Sto morendo, ma! Normalmente questo ma, è normalmente dopo questo ma vengono molto spesso cose negative, no? Sì, frate, perdonare, ma tu non sai che cosa mi hanno fatto. Sì, frate, essere generosi, ma tu non sai la mia situazione finanziaria. Sì, credere che Dio mi guarisce, ma tu non sai che cosa ho io. No? Noi certe volte non comprendiamo cosa facciamo. Questo ma è molto pericoloso, perché se quello che viene dopo il tuo ma è la spiegazione della situazione nella quale tu sei, rimarrai sempre dove sei. Io conosco gente che dice, se tu hai lo spirito di fede, non dici mai cose negative. E Paolo dice un sacco di cose negative. Afflitti, ma non ridotti agli estremi. Perplessi, non disperati. Perseguitati. Sì, lo so, il Signore vuole aiutarci. Come abbiamo sentito prima, non vogliamo essere tristi, vogliamo la gioia, ma tu non sai cosa sto passando. E il Signore vuole che noi siamo autentici, che noi diciamo la verità, ma Lui vuole che dopo quello che abbiamo detto, mettiamo un ma e diciamo quello che Dio dice. Diciamo quello che noi ci aspettiamo che Dio fa. Questo era lo spirito di fede degli apostoli. Gli apostoli, in altre parole, stavano dicendo, queste cose che noi viviamo, le afflizioni, non ci fermeranno, non ci fermeranno. E questo è lo spirito di fede, è una fede che è irrazionale. Sapete, ci sono alcuni tipi di fede nella Bibbia, per esempio c'è la fede per ricevere, no? In Luca capitolo 18 è scritto, e Gesù gli disse, recupera la vista, la tua fede ti ha guarito, vero? Ora la donna con il flusso di sangue, Gesù gli disse, fatti animo figliolo, la tua fede ti ha guarita. C'è la fede per ricevere, che è molto importante, no? Questa fede per ricevere è come si dice, il camion, italiano, il camion, il trasporto, camion. La fede è il camion che trasporta quello che c'è nel cielo per noi, ce lo porta a noi. Questa è la fede, no? C'è la fede per ricevere. La tua fede ti ha salvato. Poi c'è un altro tipo di fede nella Bibbia, una fede che cambia le situazioni, cambia la situazione, non è soltanto per ricevere, ma per esempio un esempio di fede che fa delle opere potenti, per esempio la pesca miracolosa, dove Gesù dice a Pietro, Pietro vai a pescare di nuovo, butta le reti, e Pietro dice, abbiamo pescato tutta la notte, ma... Quando vai a casa, cerca nella Bibbia tutti i ma, ci sono non so quanti mila ma, che fanno la grande differenza. Qui ci sono una fede che cambia le situazioni, ma c'è anche una fede, per esempio, che ci fa fare cose miracolose, no? Come la pesca miracolosa, è una fede, per esempio, per fede, la Bibbia dice, Noè ha costruito l'arca. Non era una fede per ricevere ora, come questa donna era malata, in fede ha preso, finito, guarita. La fede che aveva Noè era una fede che l'ha fatto continuare ogni giorno. Perciò dice la Bibbia, il giusto vivrà per... C'è una fede che ti tiene in vita. No? C'è questa fede che ti mantiene in vita. E quando le cose sono di... Ci sono progetti che sono progetti di anni che noi facciamo in fede. Questa fede ci mantiene in vita. E questa è una fede per compiere opere miracolose, opere che sono potenti. Ma c'è un altro tipo di fede, che è la fede che è irrazionale. Che io voglio menzionare. Ma quando noi viviamo in questo spirito di fede, sapete cosa succede? Io voglio dire menzionare un'altra cosa. Vedete cosa succede con questo ma nella nostra vita, no? Nei numeri è scritto la storia quando questi uomini che sono andati nella terra promessa a vedere com'era la terra sono ritornati e hanno dato un resoconto di quello che hanno visto. Mosè li manda e vuole un resoconto di quello che hanno visto. E in Numeri, capitolo 13, è scritto, verso 25, tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni. 40 giorni sono stati nella terra promessa a vedere com'era la terra. E andarono a trovare Mosè e Aaron e tutta l'assemblea dei figli di Israele nel deserto, di Paran, a Kadesh. Davanti a loro e a tutta l'assemblea fecero un resoconto e mostrarono i frutti del paese. Così fecero davanti a lui il resoconto dicendo, noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato, vi scorre veramente Veramente, in altre parole, veramente come ha detto Dio, è veramente così, con latte e miele, e abbiamo portato anche the proof, la prova. Abbiamo portato la prova che così come dice Dio, questi sono i frutti. E tutti quanti, yeah! I bambini, oh, che bello, non abitiamo nella sabbia più. Le donne dicevano, oh, possiamo fare una bella cucina a casa, non più nelle tende. Ah, applauso. E poi viene detto una piccola parola. Sapete qual è la parola? Ma. Come? Tu porti la prova di quello che ha detto il Signore e poi dici ma. Come puoi dire ma? Ma il popolo che abita nel paese è forte, le città sono fortificate grandissime e abbiamo pure visto i giganti, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo piccolo ma ha cambiato la direzione del popolo di Israele. Sapete cos'è? Il ma nella nostra vita cambia la direzione della nostra vita. Il ma è più potente che noi pensiamo. Erano nella direzione della terra promessa, ma erano girato. Lo spirito di fede ci fa vedere anche la nostra nazione in una maniera diversa. Io conosco molta gente che determinano la venuta del ritorno del Signore in base a la malvagità del mondo, quello che succede nel mondo, le guerre, eccetera, eccetera. E ci sono anche delle prediche intere, libri interi che vengono scritti, che parlano quanto il mondo sta diventando malvagio, eccetera, eccetera. Ma sapete, Dio vuole che anche in questa conoscenza noi agiamo nello spirito di fede. E ha bisogno di chiese che si alzano e cominciano a profetizzare e a parlare in questo spirito di fede. Che dice, è vero, noi non vogliamo ignorare quello che succede, ma Dio ha anche un piano. È vero? Isaia capitolo 60 dice, alzati, verso 1, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. E poi Dio dice le cose come sono. Poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni. Fratelli e sorelle, preghiamo. Oh. No, Dio non fa questo. Dio dice, ma su di te risplende il Signore e la sua gloria appare su di te. Amen. Se noi diciamo soltanto quello che sta avvenendo nel mondo, le cose negative nel mondo, e parliamo anche nel gruppo, in casa, quello che abbiamo sentito alla televisione, nel telegiornale, e non mettiamo, ma Dio ha un piano. È vero, la situazione economica nel sud Italia non è una situazione buona, ma il Signore ci benedirà in mezzo a questa situazione. Amen. È molto importante che noi viviamo in questo spirito di fede. E l'ultimo punto che voglio menzionare dello spirito di fede è questo. Si trova in Daniele capitolo 3. Daniele capitolo 3. Chi già legge la Bibbia da un bel po' sa forse di chi parleremo. Daniele capitolo 3 dice questo. Il re Nebucadnezzar fece costruire un'immagine d'oro, alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e fece ereggere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Quindi l'araldo gridò a gran voce, «O voi popoli e nazioni e lingue, è ordinato che appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, eccetera, eccetera, che voi vi prostriate per adorare l'immagine d'oro che il re Nebucadnezzar ha fatto ereggere. Chiunque non si prostrerà per adorare sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco». E c'erano, verso 12, facciamo un salto, Daniele 3, verso 12. Or ci sono alcuni giudei che hanno preposto all'amministrazione degli affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Abednego, che non prestano alcuna considerazione a te, non servono i tuoi dei e non adorano l'immagine d'oro che hai fatto ereggere. Verso 13. Allora Nebuchadnezzar, addirato e furibondo, comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abednego, questi tre giovani. Così questi uomini furono condotti davanti al re. Nebuchadnezzar rivolse loro la parola dicendo: Shadrach, Meshach e Abednego, è vero che non servite i miei dei e non adorate l'immagine d'oro che io ho fatto reggere? Ora, non appena udrete il suono del corno di tutti gli strumenti, se siete pronti a prostrarvi davanti all'immagine che io ho fatto, bene. Ma se non l'adorate, sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente, qual è il Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? La risposta di questi giovani è questo. Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: O re Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti la risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto ereggere. Allora il re Nebuchadnezzar, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: non abbiamo gettato uomini legati in mezzo al fuoco, perché li hanno buttati questi tre veramente nella fornace di fuoco. Essi risposero e dissero al re: certo, re, li abbiamo portati questi tre ragazzi nella fornace di fuoco. Egli riprese e disse: ecco, io vedo quattro uomini legati che camminano in mezzo al fuoco senza subire alcun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio dell'uomo. Sapete che è successo qui? Qua è l'espressione dello spirito di fede, di una fede che è irrazionale. Senti cosa hanno fatto questi tre ragazzi. Hanno detto: caro re, non fai suonare il complesso, lasci i ragazzi andare a casa, perché stanno suonando da stamattina, quelli sono stanchi, quindi falli andare a casa. Sapete perché? Perché noi non ci inchineremo davanti alla statua. E riguardo il nostro Dio ci può salvare dalla fornace, dal fuoco. Però dice: però se in caso non lo fa, noi non ci inchiniamo lo stesso. Sapete che è successo in questo momento? Questi tre ragazzi hanno detto a Dio: Dio, fai quello che vuoi, non devi fare niente. Se vuoi non devi fare niente, se vuoi puoi farci morire, perché noi abbiamo già deciso che noi non ci inchiniamo. E l'Arcangelo Gabriele ha detto allo Spirito Santo: hai sentito? E lo Spirito Santo ha detto: sì, quelli sono my boys. E Gabriele dice: ma normalmente sentiamo che i cristiani dicono: Dio, se io credo tu devi fare il miracolo, se io do la decima mi devi benedire, che se non mi benedici io non do più la decima, io sono offeso con Dio, e poi non vado più in chiesa, eccetera, cioè, questo è normale. Ma questo che stanno dicendo questi tre ragazzi non è normale. Quelli hanno detto, in altre parole: tu puoi liberarci o no, fai quello che vuoi perché sei Dio, noi ti ubbidiamo lo stesso. E sapete cosa ha detto Dio? Questi tre sono così diversi che io voglio andare a scendere a passeggiare con loro. Questi qua non li faccio stare soli. È una razza che è molto rara. Uno spirito che, in altre parole, mi dice: Dio, tu puoi essere Dio nella mia vita. Io ho deciso che vivrò per te. Non mi devi nemmeno spiegare niente. Se qualcosa non succede nella mia vita, o se succede qualcosa che io non so perché succede, non mi devi spiegare niente, perché tu sei Dio e rimani Dio. Io ho fede in te, che la vita si svolge così o colà, ho sempre fede in te. Sapete, questo è lo spirito di fede. È una fede che è irrazionale, ma è la fede più potente che esiste in questo universo. Sapete, quando tu dai a Dio il diritto di essere Dio, di non dover spiegare niente a te, e tu dici a Dio, è difficile, però non devi spiegare niente, perché io ho già deciso. Il pastore non deve sempre predicare le parole, le prediche belle per me, perché? Perché ho già deciso. La gente non mi deve tutta salutare, essere bella, perché? Perché ho già deciso. Non cambia niente a quello che ho deciso. E questo è lo spirito di fede che ci porta a un altro livello. Amen? Alziamoci in piedi tutti insieme. Io vorrei pregare per un gruppo di persone qui stasera, che mentre predicavo, tu sei in una situazione dove tu non comprendi perché le tue preghiere non vengono esaudite, o una preghiera non viene esaudita, o non comprendi perché delle cose sono successe nella tua vita, non fa senso, specialmente perché alcuni forse stanno vivendo per il Signore, succedono delle cose nella tua vita che tu non comprendi, e questo non comprendere ti ha frenato, ha cominciato a mettere i freni nella tua vita, ha cominciato a farti pensare di più e a fermarti, a riflettere, ma non in una maniera positiva, a riflettere più in una maniera, a intrattenere pensieri che tu dici, ma ne vale la pena essere fuoco e fiamme per Gesù, ne vale la pena veramente dare tutto, ne vale la pena investire, dare le finanze come abbiamo fatto, ne vale la pena questo, perché tu hai visto che quello che ti aspettavi non è successo, e questo ha messo dei freni nella tua vita, e tu sai che sto parlando di te. Non ti sei fermata, ma sei stata frenata. Io non voglio pregare per tante persone, ma voglio pregare tanto per queste persone che sono qui e dicono, Gianni, ci sono cose che non comprendo, che fanno male. E queste cose mi stanno come portando un'ombra della mia relazione con Dio. E io voglio essere oggi battezzato in questo spirito di fede, andare a casa e dire, Signore, tu puoi fare quello che vuoi nella mia vita, ho deciso di servire te e di dare sempre il massimo per te. Voglio togliere i piedi dai freni e mettere il piede sull'acceleratore di nuovo, e non voglio essere più frenato. E poi, come chiesa, voglio incoraggiarvi a dire, Signore, battezzaci con questo spirito di fede che ti dà la possibilità di essere Dio, fare quello che vuoi con noi, non devi spiegare tutto, non devi fare, non devi, you don't have to perform, ok? Quindi se tu sei questa persona però che dice, sì Gianni, io sono una persona che voglio essere battezzato in questo spirito di fede, lo vogliamo tutti, ma io prego soltanto le persone che dicono, ci sono cose che sono avvenute nella mia vita che io non so perché e mi hanno frenato. Io vorrei che, se è possibile, che voi venite qui avanti, ok? Voglio pregare per voi. Solo quelle persone che dicono, Gianni, io sono questa persona e voglio ritornare a questo spirito di fede. Forse sono due o tre persone, non sono molte, ma è importante per voi questa sera. Non sono soltanto tante persone importanti, anche tre persone sono importanti. Se è possibile, se alcuni della chiesa qui si mettono dietro a ognuno di loro, mettete le mani sulle loro spalle, per favore, alcuni collaboratori della chiesa. E Caterina, anche tu forse? Emanuele, dai, metti la mano su qualcuno. Gesù, quando ero piccolo, io ho ricevuto uno spirito di fede da quello che ho vissuto, da quello che ho visto. Qualcosa è entrato dentro di me. Io ti chiedo, Spirito Santo, che qualcosa entri in questi uomini, queste donne che sono qui davanti questa sera. Un'indignazione contro quello che vuole frenarli, nel nome di Gesù. Spirito Santo, ti chiedo di venire, di battezzarli in questo spirito di fede che loro stessi non comprenderanno, non sapranno, ma che sta succedendo dentro di me, che sta avvenendo dentro di me. Perché di colpo non è più importante se le promesse si avverano o no. Di colpo non è tanto importante se Dio mi benedice ora o no. Di colpo dico a Dio: Dio può essere Dio nella mia vita. Io ho deciso di aver fiducia in te, qualsiasi cosa succede nella mia vita. Nel nome di Gesù. Spirito Santo, vieni nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Io voglio incoraggiare tutti noi, da ora in poi, se tu devi dire le cose che non vanno nella tua vita, le puoi dire, ma devi essere sicuro che tu dici: ma il Signore è più forte, ma il Signore provvederà, ma il Signore ha anche un piano per la mia vita, ma io sto aspettando le promesse del Signore per i miei figli, per mio marito, per mia moglie. È difficile ora, ma Dio è con me e sta lavorando. La Bibbia dice: in ogni cosa Dio lavora per noi che amano Lui. Amen? Amen. Grazie.